4 luglio 2023, 4 luglio 1776, come ho iniziato il Breakfast Club in apertura, lo riprendo al Mood Groove, ricordando la giornata di indipendenza degli Stati Uniti d'America, festa sentitissima con classico tacchino del giorno. Quindi avremo una playlist quest'oggi, non dico che sarà attinente a tutto ciò, anche perché ne abbiamo già abbastanza, direi, di sensazioni USA e quant'altro. Anzi, andrò da ben altre località per quanto riguarda la musica. La citazione è che anche cestisticamente l'importanza di una città, Filadelfia, che è stata la sede della firma per il 1776 di questa indipendenza, e l'attinenza è con i Philadelphia 76ers, che riportano il nomignolo di 76esimi, appunto ricordando l'anno di quella data e la sede della città della Pennsylvania. Tanto abbiamo parlato di Filadelfia, parleremo di una città italiana campione d'Italia per quest'oggi, che possiamo definire invece capitale dell'economia per quanto riguarda la nostra penisola, così definita, della produttività, dalla parlata un po' particolare, dalla capitale o capoluogo di regione lombardo che risponde a Milano, o Mediolanum, che non è semplicemente per quello che riconosciamo con la grande realtà finanziaria, ma è il nome antico della città. Terra di mezzo, ufficialmente l'etimo, da Mediolanum, in seguito poi Milano. Beh, l'origine longobarda, la particolare posizione geografica, la ricchezza dall'economia e dalla produttività alla quale è assolutamente legata, se vogliamo anche da un'antipatia anche per tutto ciò, da un'altezzosità, con tutto il rispetto per gli amici milanesi, ci mancherebbe. Però sapete, gli stereotipi per quanto riguarda le caratteristiche di città sono molto molto immediati. E nello sport, Milano, beh, nello sport è fortissima. La società Olimpia Milano è la più titolata in assoluto per quanto riguarda la pallacanestro, anche quest'anno ha portato a casa il titolo in finale con la Virtus Bologna, una sfida che si perde veramente nella notte dei tempi, in quanto tante finali giocate, tanti incontri importanti di regular season e di playoff. Ma vogliamo citare anche la Milano delle case di ringhiera, o quello che erano le case di ringhiera, perché adesso oramai sono diventate case importanti e di un certo costo, la Milano dei Navigli, la Milano della comicità, dei piccoli cabaret, dei piccoli club dove si esibivano Cocchi e Renato, dove abbiamo trovato Enzo Iannacci e tanti altri, Gaber, ecco, per portare anche un aspetto tra virgolette particolare della città meneghina. Lo sport, come ho già detto, è titolatissimo nel calcio, con due squadre fortissime che non sto neanche a citare perché tutte e tutti conosciamo. Nella pallacanestro, l'Olimpia Milano, che nasce grazie al commendator Borletti, che porta una selezione di impiegati a formare una piccola squadra di basket, di pallacanestro. Adesso la data non la ricordo esattamente, ma nasce con una selezione di ragazzi che volevano cimentarsi in questo sport, impiegati nelle aziende. E detto questo, allora la colonna sonora, per fermare un attimo le mie chiacchiere, è portata dalla F Communication, e le selezioni vengono da Megasoft Office, visto che sono impiegati, una selezione musicale che accompagna, per così dire, anche il lavoro. Alex Kidd, il brano che apre la selezione dedicata alla Milano campione d'Italia 2022-2023, con una caratteristica, è la Milano campione nella sua espressione di, ovviamente essendo al Mood Groove, selezione per quanto riguarda gli atleti USA arrivati nel capoluogo lombardo. E tra poco si comincia. Intanto vi lascio all'ascolto di questo brano e inizieremo a parlare di quelle che sono state le scarpette rosse di Arthur Kinney, dell'arrivo di Dino Meneghin, del più grande playmaker in assoluto di tutti i tempi, Mike D'Antoni, e tanto altro. A tra poco. About my life, my darling. Oh, about the life I'm living. Do I think you understand? Or would you turn me down? Would you turn me down? Oh, would you turn me down again? I ain't so sure what this heart of mine. Not take no all the signs that say you've changed. So much wasted time, too much wasted time. But hey, we must be strong, we must hold on. We can turn it around again. We can turn it around again. Oh, oh, oh, oh, turn it around again. I would not let you down, would not let you down again. I would not let you down, could not let you down again. I've made all my mistakes. E visto che è una relazione Milano-USA, io direi di iniziare dopo gli albori, no? Con il Commenda Borletti che prende alcuni impiegati per farli giocare a pallacanestro. Ha una pre-rivoluzione cestistica, quindi siamo nei primissimi anni 70. Il primo giocatore che vorrei citare, che è stato un vero guerriero per le scarpette rosse sponsorizzate Simmental, sto parlando di Arthur Kinney, anche lui con questi capelli rossi per cui la divisa si abbinava perfettamente. Ma più che queste particolarità, io darei attenzione ai suoi gomiti, ai suoi tagliafuori, alla sua presenza fisica, ai tanti rimbalzi, alle sfide già presenti nella metà degli anni 70 con un emergente Dino Meneghin da Varese, insomma dei duelli che hanno portato un campionato italiano, quello del 71-72, due coppe delle coppe, una Coppa Italia, sempre con questo giocatore d'oltreoceano. Art Kinney nasce a New York il 5 marzo del 1946. Poteva giocare da ala forte, poteva giocare da centro ed è stato uno dei giocatori che direi nella Hall of Fame milanese di matrice USA indubbiamente va citato. Non siamo ancora nel periodo del Move to Groove, ci siamo quasi, ci arriveremo. Seconda metà degli anni 70, citerò due atleti, anzi tre, perché a Milano ci sarà anche l'arrivo di un giocatore oriundo. A me piaceva, un All-America anche lui, polisportivo, è stato prima scelta nel baseball e anche nella pallacanestro della NBA. Viene scelto da Detroit, Mike Sylvester, e viene scelto dai Chicago Stags per quanto riguarda il baseball, sceglierà la pallacanestro, ma arriverà in Italia con la possibilità di essere nazionalizzato. Mike Sylvester, un grande lottatore, anche lui giocatore grintoso, irascibile, provocatore, ma per quanto riguarda gli aspetti tecnici, un'ala guardia con questo tiro particolarissimo, instoppabile, con un caricamento portando la palla dietro la testa con capacità di esecuzioni assolutamente impossibili. Un giocatore con lunga carriera, arriverà anche a Bologna in sponda Virtus, sarà campione d'Italia anche con la Scavolini Pesaro, farà apparizioni a Rimini a termine della sua carriera, sarà uno dei primi giocatori oriundi per il campionato di pallacanestro Mike Sylvester a Milano. Lo sponsor mi pare che sia già Billy Milano col 1982, dove arriverà anche uno scudetto con la guida di Dan Peterson. Intanto saluto Lino, buongiorno Lino, in attesa del Mood Groove ha scritto che vorrebbe segnalare, beh, è in attesa per venire in Italia, è stato avvistato Jokic nei pressi di Copar Zenzalino, più esattamente, tanto per finire con Denver dalle puntate precedenti. Sembra che vada in pellegrinaggio nella patria di Varen, lui appassionato di cavalli, nei giorni passati era ad Agnano. Ok, sappiamo bene di questa passione del grandissimo atleta di origine serba Nikola Jokic, che oltre che essere un talento indiscusso è anche un appassionato di cavalli. Fine anni 70 non saranno anni particolarmente splendidi, anche se la presenza, beh, Milano, Varese, Cantù, Bologna sono le quattro squadre dominanti per il campionato. Milano per la vittoria del titolo dovrà aspettare il 1982. Per quanto riguarda campionati precedenti avrà ottimi piazzamenti, ma una scelta un po' particolare porterà limitazioni alla franchigia meneghina. Non avrà un centro titolare, infatti come giocatore in quella tra virgolette posizione che centro non è, impiegherà tal Charles Jerome Kupec, giocatore secondo me fortissimo, eh? Lo troveremo poi in seguito anche nella Viola Reggio Calabria, farà un'apparizione a Cantù dove vincerà la Coppa dei Campioni in finale con la stessa Milano. Kupec sarà un giocatore fondamentale, porterà tanti punti, rimbalzi, impegno, giocatore completissimo e di un'intelligenza cestistica notevole. Non era esattamente un centro, infatti prendevano un po' in giro la Milano di fine anni 70, in quanto non esattamente dei giganti per la pallacanestro, una formazione, dicevano, di gnomi. Oltreoceano, poi l'arrivo di un allenatore, un personaggio, sarà un personaggio di svolta, l'abbiamo intervistato, lui una competenza cestistica commovente, un'interpretazione della pallacanestro, ma soprattutto della capacità di aggregazione, di spettacolarità, di linguaggio, di intrattenimento. Avete già capito che sto parlando di Dan Peterson, massimo rispetto anche se per alcune scelte, è ovvio chi è senza peccato, poi ognuno ha la propria modalità di pensiero. Ciò non toglie che Dan Peterson è stato un personaggio veramente fondamentale per la diffusione del movimento cestistico. Con queste telecronache di cui tanto vi abbiamo parlato, con questa modalità più da intrattenimento che da aspetto tecnico cestistico, ma la capacità di saper fare aggregazione e diffusione, di quando qualcuno riesce a cambiare il linguaggio sta già facendo tantissimo. In maniera trasversale si dice butta la pasta, quando ormai i giochi sono fatti, no? E più volte c'è questa espressione che è rimasta nel linguaggio sportivo tempo consueto, per cui grande lavoro di Dan Peterson. Nel 1982 riuscirà con la Billy Milano a portare per l'Olimpia uno scudetto importantissimo. Vi ho parlato di tale Mike D'Antoni. Ok, Mike D'Antoni per me è il più grande playmaker che io abbia mai visto giocare su suolo e su parquet europeo. Sulla 1-3-1 in punta era un'ira di Dio, lo chiamavano Arsenio, da Arsenio Lupin, proprio per questa capacità di difendere, di rubare palla, un'intelligenza cestistica inarrivabile, una capacità di conclusione vincente. Poteva sbagliare 9 tiri di fila ed è capitato, ma se serviva l'ultimo tiro per vincere la partita, tranquilli, Mike D'Antoni la metteva sempre. Playmaker anche già abbastanza alto per l'epoca, è 1,92, 1,93. Quando dico D'Antoni playmaker c'è chi ovviamente va a trovare, ma no, nell'NBA ha giocato anche da guardia. No, Mike D'Antoni è un playmaker, punto, fine della storia. È un organizzatore di gioco, carismatico, forte in difesa quanto forte nell'organizzazione offensiva. È stato uno dei talenti per quanto riguarda Milano nella Hall of Fame, assolutamente. Continuerà la sua carriera anche in NBA come allenatore, grande conoscitore della pallacanestro, seppur con idee un pochettino discutibili. Quindi, per quanto riguarda la Milano dei primi anni 80, beh, certo, io sottolineerei la presenza di Mike D'Antoni, il grande lavoro di Dan Peterson, e citerei un giocatore che a me non piaceva tanto, ma questo poco importa, anche perché parlar male di John Gianelli, non considerate il cognome italico, lui USA, tra l'altro ha portato a New York anche delle stagioni in doppia cifra, un centro secondo me poco più che modesto. Ecco, tengo Tom Owens a John Gianelli per fare un esempio, tengo Kim Hughes a John Gianelli, però è capitato in una situazione molto molto importante per quanto riguarda la chimica, la continuità di squadra, e nel 1982 lui sarà il centro titolare insieme a Dino Meneghin per quanto riguarda il titolo all'Olimpia Milano. Stacco musicale con A Reminiscent Drive, il brano è Ambrosia, e poi si rientra e siamo nel 1984. E andiamo ancora più indietro nel tempo, ma esattamente bisogna ascoltare quello che Lino sta portando con grande contributo di competenza al Mood Groove. Beh, assolutamente bisogna citare un giocatore americano per gli anni 60, e qui andiamo indietro un bel pezzo, il senatore William Bradley, Bill Bradley, miglior giocatore delle Olimpiadi di Tokyo, uno dei migliori studenti americani, per cui vinse il premio Rhodes. In seguito vinse lo stesso premio Tom McMillan, anche lui altro intellettuale, e questo lo portò a giocare e vincere per la Simmental la Coppa dei Campioni, prima vittoria di una squadra italiana, poi artefice dei due titoli dei Knicks nella NBA, senatore democratico, famoso per la riforma fiscale negli Stati Uniti d'America e poi avversario di Clinton per la candidatura democratica alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Complimenti Lino, grazie. Sì, io sono partito un po' più avanti da Arthur Kinney, ma indubbiamente Bill Bradley, oltre che personaggio di spicco nella politica degli Stati Uniti d'America, grandissimo giocatore, una superstar per gli anni 60. Dopo la bruciante sconfitta di un punto contro la regina di coppe, la Squib Cantù con Marzorati, Riva, Gimone Brewer per la finale, mi pare, di Grenoble, una finale tutta italiana in Coppa dei Campioni, Milano insomma riprende ovviamente un percorso di prima della classe già dal 1984, con cambiamenti generazionali. La continuità con l'arrivo da Varese di Dino Meneghin avrà motivo di ripartire con una formazione assolutamente stellare, e infatti arriverà in finale contro la Granarolo Felsinea Virtus Bologna Levu Nere, altrettanto forte, con un'equipe italiana, Bonamico, Villalta, un esordiente Binelli che già di importanza e di promessa che manterrà come centro, secondo me tecnicamente il più forte italiano tra quelli che io ho potuto vedere, e un arrivo di Brunamonti come stranieri, avranno l'atletico Elvis Roll e il tuttofare, da me più volte criticato, Ian Michael Van Breda Kolff. Poco contano le mie critiche, la finale sarà Olimpia Virtus, è il 1984, per la nostra città è una data storica. Milano ha una storia particolare in quell'anno, perché trovano un americano, tale Earl Cureton, che veramente è un giocatore importante, da Detroit, un'ala forte, molto atletica, un saltatore, un giocatore verticale che ha grandi possibilità anche nella NBA. Arriva in Italia, sponda Olimpia, se ne fa un gran parlare. Beh, sarà un po' una delusione in tutti i sensi, in quanto Earl Cureton, oltre a non mantenere le aspettative promesse, avrà oltretutto una particolarità di disagio per quanto riguarda la permanenza in Italia, tanto più che la famosa fuga di Earl Cureton nel cuore della notte. Capitava anche questo, gli stranieri prendevano e scappavano in aeroporto pur di tornare negli Stati Uniti d'America. C'è chi l'America la trova in Italia, faccio un esempio, Dan Gay, c'è chi invece trova tante tante difficoltà ad ambientarsi, fino ad arrivare a questa rocambolesca fuga con Dan Peterson che lo insegue in aeroporto per convincerlo a restare. Perché Milano quell'anno vuole vincere lo scudetto, sa già che la finale è probabile con una Virtus Bologna che è una vera fortezza, ma per quanto riguarda la sostituzione di Earl Cureton, ormai fuggito negli Stati Uniti, viene proposto un giovanissimo, tra l'altro infortunato. Guardate, avete una grande possibilità, potete far fare rieducazione a questo giovane atleta di 21 anni, ultimo anno di college, ma probabilmente entrerà nelle scelte e ha un livello di scelta molto alto. Non può fare 82 partite, potete tenerlo per fare una sorta di rieducazione. Così sarà a obtorto collo, Milano prenderà quel grandissimo giocatore che poi sarà Antoine Carr. A 21 anni, chiaro, ed è in giro di finale scudetto, in giro di playoff di altissimo livello. Quindi l'inesperienza, nonostante il talento immenso che già si percepiva, si intuiva, nonostante le difficoltà in seguito all'infortunio, una capacità atletica straordinaria, una mano dolcissima, un'interpretazione offensiva quanto mai totale, un vero piacere vederlo giocare. Sarà ovviamente con un futuro radioso nell'NBA, anche se è stato un pochettino oscurato e già tanto ne abbiamo parlato, ma un professionista che poi farà della NBA la sua vita e la sua continuità. Un grande giocatore Antoine Carr, 21 anni, capita in Italia. Capita in Italia, ci sarà la finale Virtus Olimpia e beh, quanto mai strana la scelta di Dan Peterson di continuare con questa difesa 1-3-1, dove un protagonista come Antoine Carr, dove la difesa zone nella NCAA severamente vietata, sarà costantemente fuori posizione. Questo è uno degli aspetti della sconfitta di Milano e questo è uno degli aspetti della meritata vittoria della Virtus. Sarà l'anno della stella per le Bunere e secondo me sarà l'inizio ufficiale di Bologna Basket City. Sono grandi anni di pallacanestro, ufficialmente iniziata la rivoluzione cestistica, la Milano che arriva nella posizione d'onore perdendo la finale a Milano, quindi con il vantaggio di campo, due squadre fortissime, una serie finale molto molto bella. Antoine Carr sarà uno dei protagonisti, ne paga l'inesperienza e secondo me qualche errore di valutazione del grande tecnico Dan Peterson, ma tant'è. Terminata questa prima parte, rientreremo con l'arrivo del più grande straniero americano che sia mai stato nella franchigia meneghina. Sto parlando di Joe Barry Carroll. Siamo nel 1986, ma questa è una storia che ascolteremo nella seconda parte del Move to Groove. A tra poco. So high, ooh. Tornando in diretta, tra l'altro ha scritto un brano Milano Bossa, per cui direi che attinente alla nostra puntata di quest'oggi, al Move to Groove, risponde al nome d'arte, Aqua Bassino. Ha una raffinatezza di scrittura, secondo me, veramente velluto. Lo dedico a Joe Barry Carroll, questo brano. Unico difetto di Joe Barry, un po' pigro, un pochettino, diciamo non esattamente determinato. Se a Joe Barry Carroll aggiungiamo anche grinta e determinazione, beh, stiamo parlando di uno dei più grandi centri anche in NBA. Ma come hai detto che è il più grande straniero arrivato a Milano e non perdi occasione per dire che il più grande giocatore che ha calcato parquet europeo è stato Bob McAdoo, e lo confermo, lo dico tuttora. Joe Barry Carroll ha una caratteristica però, che arriva in Italia nel periodo del suo massimo sviluppo di capacità atletica e tecnica. Bob McAdoo ovviamente è un altro giocatore, un altro livello, me ne rendo conto, ma arriverà a Milano già in fase discendente e non farà rimpiangere niente, ma ci mancherebbe, un giocatore Bob McAdoo, cioè lo metto nel mio dream team di pre-rivoluzione cestistica, anni 70 nei Buffalo Braves, un fine carriera, pensate, già fine carriera NBA nei Los Angeles Lakers, e l'arrivo in parabola ampiamente discendente. Ma la sua attività in Italia, Milano, non ha lasciato ovviamente rimpiangere nulla, anzi confermo, il più grande. Per quanto riguarda invece l'aspetto di capacità fra età, produttività, capacità atletiche e tecniche, arriva nel suo massimo splendore questo centro, dalla tecnica, dalla mano, dalle mani, dall'aspetto offensivo, veramente un piacere osservare Joe Barry Carroll. Arriverà a campionato iniziato, sostituisce Wally Walker, giocatore che, pensate, modesto, arriva in Italia a Milano. Sono quei giocatori che a me fanno sorridere nello sliding doors della vita cestistica. Perché? Perché Wally Walker è a due anelli NBA. Lui è nei 12 sia per i Portland Trail Blazers di Bill Walton del 77 e nei Seattle Supersonics di Gus Williams e Dennis Johnson nel 79. Quindi Wally Walker, seppur giocatore, mi permetto di dire, molto modesto, ha vinto due titoli NBA con due squadre diverse. Era tagliato con la possibilità di trovarsi un grandissimo come Joe Barry Carroll. Beh, con l'arrivo di Carroll, che giocherà poco più che metà campionato, lo sponsor è Simac. Milano non perde una partita, non dico vince in carrozza, di più, vince a mani basse. Allora, precisiamo così dalla mia affermazione troppo carica di entusiasmo, se vogliamo, questo invece me lo dovete concedere. La più grande coppia di americani a Milano, Joe Bercarroll e Russell Cheney, che vedremo anche a Bologna nell'ultimo anno di stagione della sua carriera. Un bianco alla forte, che dire su Russell Cheney, il giocatore più completo, un alla forte con capacità di gioco anche fronte a canestro, intelligenza cestistica, sa passare la palla come allo stesso tempo sa andare a conclusione, vincerà una coppa con la Glaxo Verona, vincerà lo scudetto con Bologna, vincerà lo scudetto nell'86 con Milano al fianco di Joe Bercarroll, tornerà in NBA e farà stagioni di tutto rispetto nei Seattle Supersonics. Chiudo questa parte dicendo: ecco, con più egoismo per se stesso, per me Russell Cheney la carta NBA se la poteva giocare con un po' più di continuità, un giocatore eccezionale. Bello acqua bassino, eh? La colonna sonora Joe Bercarroll. Joe Bercarroll è un all-star game, ha fatto anche un all-star game, è un all-star, ecco, per quanto riguarda questo giocatore. Un po' pigro, unico difetto, un po' svogliato, poco determinato. Piaceva tanto prendere le botte a Joe Bercarroll. Questa l'unica caratteristica che mi porta a qualche dubbio, diciamo così, per inserirlo nella lista dei centri più forti in selezione NBA. Ma la continuità nella dinastia Milano verrà portata poi con l'arrivo di chi ho già citato, Robert McAdoo, Bob McAdoo, giocatore di cui, per quanto riguarda la biografia, potrei fare due o tre puntate di Mult Groove e non basterebbero. Un ala forte che sa giocare anche centro, un rimbalzista eccezionale, un attaccante, un terminale offensivo immarcabile, l'intelligenza di un Mike D'Antoni arrivato, non dico a fine carriera, ma quasi, era classico il gioco offensivo di Milano. Mike D'Antoni portava la palla al di là della metà campo, cercava Bob McAdoo e poi aveva il classico atteggiamento del prego, facci lei. Sì, più grande in una condizione generale, Bob McAdoo, due campionati NBA con i Los Angeles Lakers, due campionati italiani con l'Olimpia a Milano, sponsor Tracer, una Coppa Italia sempre con Milano, due Coppa dei Campioni nell'87 e nell'88, una Coppa Intercontinentale con Milano, record individuali. Nell'NBA lui è Rookie of the Year nel 73-74, anzi scusate, nel 72-73. E Rookie of the Year è l'esordiente dell'anno. Vince per tre volte la classifica come miglior realizzatore nell'NBA, metà anni 70, fa 5 All-Star Game, ovviamente MVP dell'anno nel 74-75. Bob McAdoo è riconosciuto per quell'anno come miglior giocatore di pallacanestro al mondo. La fine. finale con il giallo all'ultimo secondo contro la Libertas Livorno, con il canestro annullato ad Andrea Forti all'ultimo secondo, altra corazzata, la terza squadra italiana più forte che io abbia mai visto, eh? Beh, per quanto riguarda le realtà italiane, la più forte squadra che io abbia mai visto giocare è la Scavolini Pesaro di Darren Day e Darwin Cook, Treviso di Vinny Del Negro e Tony Kukoc, e beh certo la Libertas Livorno con Wendell Alexi, Alessandro Fantozzi, Andrea Forti, una squadra. Milano vincerà con un canestro annullato all'ultimo secondo, ci sarà giallo, polemiche, chi più ne ha più ne metta. Lì nella partita che vi sto descrivendo, a proposito invece di impegno, determinazione, nonostante il palmarès che vi ho elencato, è il famoso tuffo che è diventato icona di immagine per quanto riguarda la vera pallacanestro di Bob McAdoo, che cerca di recuperare in difesa una palla che ormai è destinata al contropiede labronico. Lui si tuffa veramente rendendosi parallelo al suolo, qualcosa di grintoso, di impegno, di quel che si suol dire sputare sangue. Il brano è di Liorca, che stiamo ascoltando come base sotto questa biografia cestistico italiana di Bob McAdoo, è di Liorca, e il brano infatti si chiama The End, perché stiamo arrivando alla conclusione. Seguiranno a Milano giocatori importanti, ne porto uno che è stato un'altra meteora ed è il fratello del grandissimo Bernard King. Ho avuto la fortuna, perché scende dall'aereo, mettono le scarpe, preso al volo, ad Albert King, fratello di Bernard King, sarà campione d'Italia nella famosa partita di Livorno al fianco di Bob McAdoo per l'Olimpia Milano. Albert King per me un giocatore strepitoso, chiaramente arriverà in Italia a carriera ampiamente al termine, ciò non toglie che veder giocare questi protagonisti di epoca, rivoluzione cestistica, è qualcosa di poetico, è andare a teatro a vedere Shakespeare, è andare a teatro a vedere i più grandi della drammaturgia mondiale, vedere questi giocatori che sono stati la storia della pallacanestro, anche se in età avanzata, era oltre che poesia, insomma, per quanto riguarda lo sport, e non solo, anche la signorilità, la capacità carismatica di tenere il campo e quello che insegnavano e trasmettevano. Arrivato in Italia, mi ricordo, fece 16-17 punti in un tempo, giocò contro la Fortitudo, allora sponsorizzata yoga, e beh, che dire, fu una partita veramente a senso unico. Albert King nel suo esordio, ricordo benissimo che nei due tiri prima della ruota di riscaldamento salutò il pubblico di Bologna, che non è esattamente con la Fossa dei Leoni un esempio di accoglienza per gli avversari, però lui tra i fischi si girò e sorrise, non capiva quello che stava succedendo, perché non esiste in America fischiare così senza alcun motivo preciso, e ricordo questa figura che si gira, saluta i ragazzi intanto che lo coprono di fischi. Beh, sapete che è successo? Che restati un pochettino attoniti da questo atteggiamento, e cominciarono a applaudire anche loro. Quindi fu un bel esempio di sportività. Grandissimo giocatore Albert King. E quindi siamo arrivati alla conclusione. Quello che è successo dopo magari me lo raccontate voi. Io chiudo con due citazioni da atleti importanti. Uno è Jay Vincent, fratello di Sam Vincent, fratello maggiore di Sam Vincent, ex Boston Celtics, che arrivò a Milano, certo, una grande figura, un'ala piccola che poteva giocare anche più vicino a canestro, un giocatore che nei Dallas Mavericks ha portato partite importanti, ma la figura con la quale volevo chiudere è un All-Star, anche lui a Dallas, è Rolando Blackman. A fine carriera terminerà a Milano, portando ovviamente, come ho detto prima, le sensazioni che vi ho descritto in precedenza per quanto riguarda la grandissima pallacanestro. Siamo nel 91-92, mi pare, un anno, sono anni di normalizzazione cestistica. Da lì in avanti, beh, lo sapete anche voi come la penso. Detto ciò, quello che è stato Milano fino ad arrivare al 2022-2023 con la vittoria del titolo e quindi le congratulazioni per la società Olimpia Milano e la conclusione del Breakfast Club odierno. Quello che poi è capitato, se volete, me lo potete raccontare voi. Io ho parlato di quello che è stato. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento con un Voltiamo Pagina in solitaria domani, la rubrica letteraria dei 103.1, per la prima colazione in diretta che per questo martedì termina qui. Da spazio alle non c'è l'EDP enciclopedico, scusate, vedete poi l'abitudine, sono abitudinario, e quindi a Liberi Dentro a seguire la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali e Manuela Bassi. Dal vostro William Piana un caloroso abbraccio, un grazie per l'attenzione, una buona giornata, un buon martedì e l'appuntamento è a domani. Mi raccomando, super mattiniere e super mattinieri, alle ore 7 vi aspetto.